24 mattino. Spero che i giornalisti siano intellettualmente onesti. Perché non dite la verità? Che bloccare i voli diretti dalla Cina è una grande idiozia? Perché i cinesi fanno uno scalo, due scali in giro per il mondo e i voli che vengono da qualsiasi parte del mondo, per esempio Emirati Arabi, non sono bloccati, quindi i cinesi fanno Cina, Emirati Arabi, Europa ed eccolo fatto. Ieri ero in Paolo Sarpi, Chinatown di Milano, completamente vuota, non c'era nessuno, ristoranti vuoti. Ma è normale, ma chi si fida di andare a mangiare lì adesso? Con i controlli sanitari che abbiamo noi, che sono un colabrodo, andiamo a mangiare lì. Già non controllano quando è normale, figuriamoci adesso. La nota di Palazzo Chigi riguardo l'agenda di governo che avete appena mandato in onda, Conte l'ha estratta da una rivista enigmistica per sottoporla ai giornalisti? Va bene, va bene. Oh, non sono d'accordo con l'ascoltatore sul tema dei controlli sanitari e sui controlli anche nei ristoranti e via dicendo. In realtà noi abbiamo un sistema di controlli molto rigido, molto più rigido che in altri paesi europei. Soprattutto appunto sulla parte dei ristoranti. Oh, ci scrive invece Stefania, dice: sono l'assistente e l'amministratore delegato di una società che produce mascherine. Non ti dico che settimana che abbiamo avuto, sono già in ufficio alle 7 del mattino. E vabbè. Seconda parte di 24 mattino, le 7:20. La parte dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia e ovviamente giornali pieni di questa vicenda del coronavirus. Molti ce l'hanno in apertura, come il Corriere della Sera, virus, i primi due casi accertati in Italia. Vi dice il Corriere, appunto, virus colpita l'Italia, il titolo della Repubblica. Virus, due casi a Roma, bloccati i voli con la Cina, il titolo del Messaggero. Virus paralizzante, il titolo di Avvenire. E poi ci sono un po' di altri giornali che si dedicano ad altri temi. Oh, abbiamo anche il manifesto che mette insieme due cose. Il coronavirus, insomma, gioca un po' su questo. E il rapporto Eurispes del quale abbiamo parlato, quello sull'antisemitismo. Il virus dell'odio è il titolo del manifesto. Dossier economici in apertura del Sole 24 Ore con il ministro Gualtieri, che ieri ha parlato a Telefisco. Gualtieri rilancia nuovo fisco entro l'anno, con appunto l'intervista all'interno e l'editoriale del direttore Fabio Tamburini, che annuncia che il Sole si farà cantiere di questa riforma del fisco, ascoltando le voci di tutti e raccogliendole. Zingaretti più Conte uguale record di disoccupati è il titolo del giornale, sui dati sul lavoro arrivati ieri. Ciao Inghilterra, beata te che te ne vai dall'Europa è il titolo di Libero. L'unico condono che piace a sinistra è la sanatoria per gli immigrati è il titolo della Verità. Il Fatto Quotidiano, qua adesso Giorgio De Luca mi ucciderà perché il titolo è in napoletano, Giorgio De Luca dall'altra parte del vetro, il nostro Giorgio, e lo leggerò male, però è «Moce ripigliam tut quelle che nuost», è il titolo del Fatto Quotidiano. Citazione da Gomorra e si parla dei vitalizi. Anche La Stampa apre sul coronavirus, primi casi ricoverati a Roma, due cinesi, allarme. Il Quotidiano Nazionale, italiani shock, il 15% nega la Shoah, e l'editoriale del direttore Michele Brambilla è: c'è un virus più insidioso di quello cinese, il riferimento è proprio a questo. Iniziamo dunque da un po' di notizie diverse, laterali come sempre facciamo, laterali ma nemmeno troppo perché, scusate, hanno Se volete a che fare con il rapporto delle Eurispes che citavamo poco fa e sul quale torneremo più avanti anche con Paolo Mieli, ma ci sono anche notizie al territorio che hanno a che fare con l'antisemitismo. E dunque ce l'ha solamente la Nazione ed è un racconto di un altro episodio che farà discutere, è prevedibile che faccia discutere, sappiamo come funzionano queste cose, ed è il caso di una scuola, la scuola Mazzanti, via Augusto Novelli, Coverciano, lunedì, giorno della memoria. La professoressa racconta Emanuele Baldi, appunto a pagina 4 della Nazione, delle cronache locali della Nazione, entra in classe e dice: Liliana Segre non la sopporto, e anche voi ragazzi non vi fate fregare da questi personaggi che cercano solo pubblicità. Così la professoressa, entrando in classe, sta facendo, racconta Baldi, l'ennesima divagazione della sua materia di insegnamento dopo aver fatto irruzione in classe durante la lezione di storia di una collega. È un fiume in piena e non ammette repliche. Ce l'ha con la Segre, 90 anni, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana. E dice: anche mio nonno è stato in un campo di concentramento, ma non è certo andato in giro a dirlo a tutti. Dulcis in fundo, si fa per dire, l'ammonimento della prof che sa pure di velata minaccia. E ora non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita. I ragazzini di seconda media invece riferiscono comunque tutto ai genitori, e a quanto pare, raccontano alcuni genitori, ovviamente tutto da verificare, pare che abbia anche tessuto le lodi di Mussolini. Insomma, il dirigente scolastico interviene, la docente si scusa, come sempre avviene alla fine di questi episodi. E un altro episodio si registra nuovamente in Piemonte, è il terzo caso di questo tipo. Mio padre non ha mai avuto paura, nemmeno quando hanno dato fuoco alla sua libreria, racconta in Laura, 71 anni, figlia del partigiano Armando, a pagina 22 della Repubblica, e lo fa Federica Cravero. Ma lui è morto nel 2014 e non ha fatto in tempo a vedere il clima d'odio di quest'ultimo periodo. Che cosa è successo? Che Laura l'altra mattina si è trovata sul campanello di casa nel quartiere Vanchiglia di Torino due etichette che coprivano il nome Sigail Raus Gut. Si esprimono come i nazisti e mi vogliono cacciare. Non dico che me lo aspettassi, ma non sono troppo stupita. L'episodio, su cui indaga la Digos di Torino, è il terzo in Piemonte in meno di una settimana. Ormai lo sapete, la scritta Juden hier sulla porta di casa della staffetta partigiana Lidia Rolfi a Mondovì, e quella su un ballatoio di Torino, crepa sporca ebrea, rivolto alla figlia di Ines Giron, ebrea che ha partecipato appunto alla Resistenza. Altri due casi, poi andremo sul rapporto dell'Eurispes, che riserva qualche sorpresa, non tutte sottolineate dai quotidiani. Ci arriveremo tra un attimo. Voglio però portarvi invece a pagina 18 del Corriere della Sera, perché insomma mi pare che su questo tema, sul tema della violenza commessa nei confronti delle donne e dei femminicidi, non sia mai abbastanza il sottolineare il cosa si può fare in casi come quello che abbiamo visto succedere a Mazara del Vallo, dove Rosalia Garofalo, 52 anni, è stata picchiata per 3 giorni dal marito. Lui è stato fermato, ha confessato, ha detto lei mi tradiva. Salvo Toscano, a pagina 18 del Corriere della Sera, ci racconta un altro elemento. Non era la prima volta che subiva violenze e maltrattamenti. Lei lo aveva già denunciato in passato e per 2 volte aveva ritirato la querela. L'ultima solo pochi mesi fa, comunicando che non sarebbe più tornata sotto lo stesso tetto con lui, cosa che in effetti per un certo tempo aveva fatto, alloggiando in una comunità. Poi è andata in un altro modo, e sotto quel tetto della casa di via Calipso, a Mazara del Vallo, Rosalia, disoccupata ai 53 anni, ci è tornata ed è stata uccisa mercoledì sera. E dunque la domanda è: come si può fare a tutelare queste donne che prima denunciano e poi magari decidono di ritirare la querela. Ci è andata molto vicina, racconta Salvo Toscano, a Rosalia a liberarsi da quel legame. A novembre aveva contattato l'avvocato Marilena Messina per avviare la pratica di separazione. Si era rivolta a me perché voleva lasciare il marito, riferisce la legale. Mi aveva raccontato dei maltrattamenti. Era stata accompagnata da personale della comunità che la seguiva. Purtroppo, dopo 2 settimane, aveva deciso di rientrare in casa. La signora stava male, aveva avuto i suoi problemi di salute. È una storia molto triste, ma non è la prima storia di questo tipo. Siamo a pagina 18 del Corriere della Sera. Resta in primo piano la questione immigrazione per tutta una serie di motivi. Vi voglio portare su... in realtà 3 pagine di giornale, pagina 9 del Fatto Quotidiano, la quale pagina 9 del Fatto Quotidiano riporta quello che ha scoperto la procura di Agrigento e che emerge con l'archiviazione di Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione della ONG Mediterranea e comandante della nave Mare Ionio. Entrambi erano indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e appunto sono stati archiviati. Che cosa emerge da questa, guardate che è un elemento rilevante anche politicamente questo qua, cosa emerge da questa relazione della procura di Agrigento? Dagli elementi probatori acquisiti sembra che la nave Capri e quindi la Marina Militare Italiana svolga di fatto le funzioni di centro decisionale della cosiddetta Guardia Costiera Libica. Quindi la Guardia Costiera Libica, cosiddetta perché molti la considerano in realtà un covo, anche e in parte dimostrato un covo di miliziani e trafficanti di uomini, è sostanzialmente o è stata diretta dalla Marina Militare Italiana. Almeno questo è quello che scrive la Procura di Agrigento in questo, provvedimento di archiviazione. Libia, che resta al centro della scena perché ci racconta a pagina 16 il Corriere della Sera, e c'eravamo già tornati ieri, c'è questa questione del memorandum che abbiamo sottoscritto con la Libia e che al momento dovrebbe essere rinnovato entro il 2 di febbraio, modificato entro il 2 di febbraio. Il Presidente del Consiglio Conte ha promesso che in questa giornata di oggi sarà dedicata esattamente anche a riflettere su questo. E però, questo memorandum c'è, potrebbe essere rinnovato così com'è, ed è un memorandum in 8 articoli per ribadire l'impegno a proseguire iniziative di cooperazione in materia di immigrazione. In sostanza, aiuti alla Libia per fermare i migranti. Ma quale Libia? Il tema è quello. A un paese diviso come adesso, a un paese in sostanziale guerra civile, è un altro grande tema. Così come un tema è quello dell'accoglienza. Di chi è già qua, di chi arriva, pagina 9 di Avvenire, Luca Liverani ci racconta come si stia passando dall'accoglienza umanitaria al business dell'accoglienza, almeno teoricamente. Il cambio di gestione al centro Casa Malala di Trieste, struttura per la prima assistenza ai richiedenti asilo della via balcanica, apre scenari e interrogativi e conferma la tendenza avviata, scrive Liverani, dai decreti sicurezza salviniani di favorire l'affidamento dei centri ad aziende lucrative più che alle onlus della rete territoriale dei centri SPRAR. Succede in località Fernetti, dove la gestione del centro, da 6 anni guidata da Consorzio Italiano di Solidarietà e Fondazione Caritas, è scaduta ed è stata affidata per bando a Ors Italia. Chi è? È un'azienda affiliata del gruppo elvetico Ors, nato nel 92 da una costola di Adecco, società di lavoro interinale. Il gruppo gestisce centri per richiedenti asilo in Svizzera, Austria e Germania e continua a vincere bandi nonostante le inchieste giornalistiche e le interrogazioni parlamentari negli anni scorsi hanno denunciato gestioni inefficienti e lesive dei diritti fondamentali. Qual è il tema? Avendo abbassato il costo, no, il costo dell'accoglienza, chi può lavorare sull'accoglienza sono solamente evidentemente grandi aziende. Fatemi chiudere prima di andare alla parte poi centrale della nostra pausa, la parte centrale della nostra rassegna stampa. Restiamo su Avvenire con una nota un po' più leggera, e però anche questo farà discutere. Siamo a pagina 19. Alessandra Turrisi da Palermo ci racconta come un giudice abbia imposto a un oratorio di smettere, cioè non si può più giocare a pallone dentro l'oratorio. Perché? Perché i vicini si sono ribellati, si sono ribellati, hanno protestato contro poveri ragazzini, erano là a giocare a pallone nell'oratorio. La storia comincia 2 anni fa, quando alcuni inquilini di un edificio di via Filippo Parlatore, e parliamo dell'oratorio Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, che si affaccia sul cortile, presentano un ricorso lamentando un uso improprio di quello spazio, una situazione di perenne di rumore intollerabile. Contestano i raduni ludici e sportivi con l'impiego di molteplici palloni da gioco e impianti amplificatori durante molte ore del giorno. E dunque il giudice cosa decide? Dice: vieta lo svolgimento di qualsiasi attività ludica o ricreativa che implichi l'impiego di palloni sugli spazi esterni della parrocchia e dell'oratorio, in assenza di porte da gioco calcistico regolarmente munite di reti e distanti almeno 1,5 metri dalle pareti dell'oratorio, e gomma piuma sulle pareti. E ancora, il basket una sola volta alla settimana per una durata non superiore ad 1 ora. Pausa. Mattino. Ed eccoci di nuovo, le 7:37 minuti e 52 secondi. Vedo che ci state un po' scrivendo su questa storia dell'oratorio. Qualcuno ci dice: a Viareggio è successa la stessa cosa più di 10 anni fa. Niente pallone, è tollerata la messa una volta alla settimana. Vabbè. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno, come stai? Eccoci, buongiorno, buongiorno. Allora, prima di andare al coronavirus, andiamo... Oddio, mi sta venendo un gioco di parole orrendo. Alle teste coronate. Hai trovato notizie su Harry e Meghan oggi? Sempre. Notizie. Poi oggi è il giorno della Brexit, ne parleremo certo. Adesso. Ma sul Fatto Quotidiano, Harry perde il primo round col Daily Mail. Di che si tratta? Il principe Harry aveva pubblicato una sua foto con un elefante e il giornale aveva mostrato l'originale di questa foto, che l'elefante aveva le zampe legate. Harry aveva querelato il giornale e ha perso il primo round. Questi due faranno parlare di sé per sempre, saranno notizie per metà divertenti, per chi diverte a leggere queste cose, ma per metà indicative dello stato della morale nel Regno Unito, di quello che sta cambiando intorno al tema Inghilterra. Però le notizie sui giornali vere. Sì. Sono quelle su Brexit, certo. Allora, oggi lo ricordiamo agli ascoltatori, è una data simbolica, nel senso che è una data anche sostanziale. Ufficialmente il Regno Unito esce dall'Unione Europea, però nella sostanza di grandi cose al momento non ne cambiano, perché va ancora trovato un accordo con Bruxelles. Certo, Brexit, il primo impatto è solo politico, Beda Romano sul Sole 24 Ore, addio a mezzanotte, da domani i rappresentanti britannici lasciano la UE, cambia la composizione dell'Europarlamento. La transizione, secondo l'accordo di recesso, cittadini e imprese manterranno gli stessi diritti almeno fino al 31 dicembre per 1 anno. Sai qual è l'impressione? Che tutto avvenga in un clima di festa e non di lutto, strano. Tra l'altro le cose sembrano andare bene. Sempre dal Sole 24 Ore leggo una notizia di Nicole degli Innocenti, anzi un articolo, in cui esce di scena il governatore della Banca d'Inghilterra, Carney, e ci racconta uscendo che l'economia è ripresa, anche se avverte prudentemente presto per festeggiare. Tutti i giornali sono pieni di schemi, anche molto divertenti, su cosa significherà questo Maina Bandiera londinese. Il Big Bang resterà silenzioso, pieno di notizie curiose, gustose, a cui si mescolano, come abbiamo detto all'inizio, quelle su il reale d'Inghilterra, ovviamente, e i guai che combinano. Senti, reali e tabloid. Sì, reali e tabloid. Ascolta, qua andiamo ai temi internazionali, no? dai confini che si chiudono con la Gran Bretagna ai tanti confini che si chiudono con la Cina per la questione del coronavirus. Da una parte la questione diciamo che ha a che fare con la salute pubblica. Gli aggiornamenti di questa mattina ci parlano di oltre 200 vittime, 9.000 contagiati, i primi due contagiati in Italia da ieri, dall'altra quelle economiche con il Fondo Monetario Internazionale che dice occhio che questa cosa per l'economia è rischiosa, un po' su tutti i giornali, questo è ovvio, il fatto che ci siano questi due casi di cinesi beccati in Italia, sembra che ce ne sia un terzo, gettano l'allarme. Fino ad oggi il nostro paese è rimasto al riparo, ieri c'è stata una nave con migliaia di villeggianti che è stata bloccata in attesa che si scoprisse se uno ammalato era contagiato dal coronavirus. Per fortuna non è stata così. Ci sono alcune cose curiose che per il momento si affacciano tra le righe. Due te ne segnalo. Una, che c'è un'ipotesi che questo coronavirus sia stato creato in laboratorio per danneggiare la Cina. Io non ci credo, mi sembra puro complottismo. Dai. Però vedrai che questa notizia tornerà sempre più spesso, perché certo, sono i cinesi stessi a essersi allarmati, perché non riescono a venire a capo davvero di come sia cominciato. Isolare il primo focolaio è la cosa più importante. L'altra, per il momento, di casi dall'Africa non ce ne sono, non se ne ha notizia, però mettiamola così, che è difficile bloccare le frontiere con i cinesi mentre si ha un forte problema di migranti. Non ce ne sono, ripeto, non ce ne sono, lo dico per la terza volta, però qualcuno avanza l'idea che, siccome stanno approdando moltissimi migranti in questi giorni, passate le elezioni, come noto, ne abbiamo già detto, vengono lasciati sbarcare, che in mezzo a questi sbarchi non ci sia un possibile contagio. Tutte e due fantapolitica, ma le segnalo per obbligo solo di completezza. Sì, perché comunque girano, si diffondono e via dicendo. Intanto l'Italia appunto ferma i voli con la Cina, e Corriere della Sera ci racconta a pagina 5 che è il primo paese a chiudere le rotte con la Cina, posto che ovviamente spesso i cinesi non è che fanno il volo diretto su Roma o su Milano, ma come ci diceva già prima un ascoltatore, fanno scalo, e quindi serve e non serve questa cosa. E poi tutti i dettagli li trovate un po' su tutti i giornali, anche su questa del psicosi. Resto, come racconta Mauro Evangelisti sul Messaggero, i due che sono stati trovati contagiati erano sbarcati a Milano 7 giorni fa. Poi hanno iniziato un tour in tutto il paese, hanno rispettivamente 66 e 67 anni. Altra cosa che si segnala, colpisce poco i bambini, i ragazzi e molto le persone più in età. Ma dicevo, questi due signori per 7 giorni, almeno 7 giorni, hanno viaggiato in quel largo, hanno probabilmente toccato i loro compagni di viaggio. Non è così semplice come può apparire, non basta isolare loro due e la questione è risolta. Adesso bisogna fare una caccia ed è bisogna ricostruire il percorso di queste persone. Esatto. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Ed eccoci di nuovo alle 7:47 minuti per venire a quello che Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale, definisce un virus più insidioso di quello cinese. E siamo, caro Paolo, a questa indagine che colpisce molto, realizzata dall'Eurispes, che indica che il 15% degli italiani nega la Shoah, cioè pensa che l'Olocausto non sia mai avvenuto. E insomma, se ne occupano un po' tutti, con accenti diversi. Beh, sì, veramente la notizia. Allora, innanzitutto diciamo che a credere ciecamente a queste indagini si fa male, nel senso che sono indagini come tutte quelle di questo genere approssimative, però ci avvertono che nel giro di pochissimo tempo sono aumentati coloro che non credono all'Olocausto, che sono sostanzialmente su posizioni negazioniste, sono aumentate in maniera spettacolare dal 3, meno del 3 al 15%, quello che hai appena detto, ma questo lo mettono in rilievo soprattutto i giornali di destra, il Giornale in particolare, che questa cosa cresce vertiginosamente fra gli elettori della sinistra e dei 5 Stelle, cioè, mentre sono stabili quelli di destra, quelli di sinistra hanno sempre più l'impressione che ci siano delle esagerazioni sulla Shoah, insomma questi temi che ci si aspettava fossero molto più popolari fra la destra, anzi nell'estrema destra, invece così crescono a sinistra. La cosa che mi incuriosisce è che gli altri giornali, quelli di sinistra ma anche quelli normali, questo dato non lo colgono, e invece è un dato molto interessante, perché poi andrà spiegato probabilmente nel rapporto di simpatia con la causa palestinese, forse, palestinese, sì, forse, oppure con altri motivi, ma siccome noi siamo abituati che ogni scritta sui muri diamo la colpa esclusivamente ai neonazisti, attenzione, lo Cristo ci avverte, non è colpa solo dei neonazisti, ma è colpa anche della sinistra. Sì, diciamo, quando la scritta sul muro è Sieg Heil, c'è poco dubbio, devo dire, Paolo, oggettivamente, insomma, però sì, sono d'accordo. Sono le proporzioni. No, certo, naturalmente. Questi sentimenti vengono fuori da altrove, ma è solo una piccola spia, sono come quelle prima che ti citavo a proposito del coronavirus, sono piccole spie che traspaiono dai giornali. Senti, ci sono molte cose su Leni nella giornata di oggi sui quotidiani, a partire dal Giornale, che a pagina 8 mette questo pezzo firmato a Luca Fazzo: le tangenti non ci sono, il processo flop a Leni ha già costato 100 milioni, sono le spese affrontate all'ente per la difesa sui casi delle presunte mazzette in Africa. Ma c'è anche una notizia curiosa e ci riporta a Massimo D'Alema. Sì, sembra, sempre con data come indiscrezione, che il motivo per cui D'Alema negli ultimi giorni ha fatto intervista al Fatto Quotidiano elogiando i grillini, dicendo che sono, che secondo lui si riprenderanno, che sono importantissimi, così, che aspiri alla presidenza dell'ENI. E quindi per questo le notizie me le stai dando insieme, perché mentre i vertici dell'ENI hanno delle difficoltà, siamo alla vigilia delle nomine, dovrebbero essere o confermati o cambiati i dirigenti dell'ENI, secondo il Giornale c'è un futuro, c'è un cane a sei zampe nel futuro di Massimo D'Alema, il tantam, lo attribuisce a un tantam del palazzo, l'ex premier di Este punta alla presidenza dell'ENI, per questo nello stupore generale si è fatto infilare da Leu nel tavolo di maggioranza al quale fermano le trattative in vista della mega infornata di nomine dalla prossima primavera. Anzi, dentro la stessa Leu c'è chi storce il naso, sta lì a nome nostro, ma lavora per sé. Ripeto, rimando tutto il tono anche di queste indiscrezioni al Giornale o queste fonti anonime di Leu, ma insomma D'Alema starebbe brigando per tornare non già come capo politico, ma in un importante ruolo economico. Economico, alla guida dell'ENI. Oh, a proposito di questioni che hanno a che fare con l'economia, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alle parole del ministro Gualtieri, ieri ospite di Telefisco, che annuncia la nuova riforma fiscale entro l'anno, un grande cantiere che si apre, no? Con una delega fiscale ad aprire per una riforma appunto entro l'anno, una delega al governo in questo caso, dice Gualtieri, e un cantiere che si apre anche sulle pagine del Sole 24 Ore, lo dice Fabio Tamburini, il nostro direttore, il cantiere aperto del Sole 24 Ore. È uno dei tanti dossier sul tavolo del governo, Paolo, e che ieri si è riunita la maggioranza per provare a rilanciare questa azione. Diciamo, ne sono usciti con un comunicato molto soft, a dire il vero. Ti ammiro per la tua capacità di usare eufemismi, perché loro sono molto capaci. Un'intervista che tu citavi a pagina 3 del Sole 24 Ore, importantissima, di fare grandi annunci per cose che si faranno entro l'anno, cioè benché vada a dicembre del 2020. Per l'immediato invece sono dolori terribili, perché vedo un titolo di Tommaso Ciriaco, di un articolo di Tommaso Ciriaco su Repubblica: revoca autostrade, Conte ora frena e studia il taglio IRPEF. Eccoci qua, l'allarme del grillino Bonafede al vertice di governo, movimento diviso, aiutateci o non reggiamo. Si apre lo scontro sulla riforma del Jobs Act. È passato meno di una settimana, siamo venerdì, le elezioni emiliane sono state domenica e tutto è ripreso come prima. Rinvii, entro l'anno, non reggiamo, aiuto. Cosa si fa sui singoli dossier e autostrade, e questo, eccetera, eccetera. Sì, vorrei ricordare, questo è il famoso vertice, che quando a dicembre si capì che il governo era, per così dire, affaticato, sì, va bene, ma adesso dopo l'Epifania si farà un vertice. Poi si è detto, ma ci sono le elezioni in Emilia a fine gennaio, aspettiamo, dai, sì, facciamo il vertice, e viene fatto adesso a fine gennaio. E a fine gennaio ci sono le cose, come ti ho citato il titolo dell'articolo di Ciriaco, e grandi annunci per cose che si faranno entro l'anno. Che Dio ce la mandi buona. Abbiamo 20 secondi veramente, poi l'abbiamo vista ieri. Alla fine era vero, qualcuno aveva pensato a Chiara Gamberale come presidente del Partito Democratico, poi però adesso si parla anche di Elly Schlein, vedi che le cose sono in movimento. Tutto in grande movimento, ma le cose si chiariranno solo quando proporranno te alla guida, certo, del partito. Tu hai però un difetto, che non sei donna. Attenzione, perché io ho un'idea per te, caro direttore. Il prossimo capo dello Stato, Paolo Mieli, presidente della Repubblica. Lanciamo una grande campagna e vedrai che quando si va a votare qualcuno sulla scheda... Così il nuovo Stato, annunciamo ai nostri elettori. Allora, Paolo Mieli, capo dello Stato, Massimo D'Alema, presidente dell'ENI, Simone Spezia, presidente del Per PD. Carità, no, la presidenza fatta, del PD. No, grazie Paolo, ci sentiamo lunedì.